La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato all'unificazione europea. Si parte dal 9 maggio 1950, quando il ministro degli esteri francese, Robert Schuman, lancia la proposta di creare una forma di solida cooperazione tra i paesi europei. Fino al varo dell'euro, il 1 gennaio 1999, nuova moneta ufficiale attualmente adottata da 17 dei 27 Stati membri. Ospite ai nostri microfoni Francesco Gui, docente di Storia dell'Europa presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università di Roma La Sapienza. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla costruzione del Muro di Berlino, che divise in due parti la città per 28 anni, dal 13 agosto del 1961 fino al 9 novembre 1989. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Può apparire in qualche modo singolare, nel momento in cui l'euro vive la sua crisi più grave, ricordare, soffermarsi, seppur brevemente, sul percorso di unificazione europea. Seppur con tutti i limiti di un'unità costruita solo sotto il segno della moneta, senza un vero governo politico dell'economia, senza la fondamentale armonizzazione delle politiche fiscali, si è trattato, come vedremo tra breve, senza dubbio di un passaggio storico. Ritornano alla mente le visionarie e lungimiranti idee contenute nel manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da tre illustri italiani del calibro di Altiero Spinelli, il padre del moderno europeismo, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Il problema che in primo luogo va risolto è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte degli stati del continente sotto il rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. Gli spiriti sono ora molto meglio disposti che in passato ad una riorganizzazione federale dell'Europa. Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei indipendenti con la convivenza della Germania militarista a parità di condizioni con gli altri paesi, né si può spezzettare la Germania e tenerle il piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova è apparso evidente che nessun paese d'Europa può restarsene da parte mentre gli altri si battono, annullavalendo le dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione. Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto. Lentamente, con il passo del pachiderma, gli avanzamenti nel processo di integrazione europea sono stati tuttavia costanti. L'adozione della moneta unica ne è in qualche modo il coronamento. Si parte in questo breve viaggio che oggi facciamo con voi dal 9 maggio del 1950, quando il ministro degli esteri francese Robert Schuman lancia a sorpresa la proposta di creare una forma di solida cooperazione tra i paesi europei. Nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Sei i paesi firmatari del trattato: Germania, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Comincia così la lunga marcia verso l'Europa unita. Il secondo mattone, potremmo dire, di questa costruzione faticosa dell'Europa viene posto a Roma il 25 marzo del 1957 con la firma dei trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea. Sei paesi fondatori: Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi. E poi, per arrivare ai tempi più recenti, citiamo almeno due passaggi fondamentali: il Trattato di Maastricht del 1992, il faticoso varo del Trattato di Lisbona. Del lungo e faticoso processo di integrazione europea, oggi messo a dura prova dalla drammatica crisi che sta investendo l'Eurozona, parliamo con Francesco Gui, docente di Storia dell'Europa dell'Università La Sapienza di Roma. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. Allora, questa breve ricostruzione che noi abbiamo ora proposto ai nostri ascoltatori comunque ci dice una cosa, che seppur a fatica, seppur con un passo forse troppo lento rispetto all'evoluzione, ad esempio, di molti altri processi, penso ai processi economici, ma l'Europa in qualche modo c'è dal punto di vista istituzionale. Eppure manca però un aspetto fondamentale, e cioè quello dell'unità politica. Ma nella storia dell'Europa dal dopoguerra in poi ci sono elementi che possono far pensare che questo processo prima o dopo si realizzerà, secondo lei? Diciamo che è sostanzialmente un problema di volontà, anche se apparentemente quando venne lanciato la dichiarazione Schuman ci si ispirava all'idea che si metteva in moto un meccanismo che piano piano, un meccanismo chiamato funzionalistico, cioè per cui dalle istituzioni economiche si sarebbe passati progressivamente a quelle politiche. Cioè, in parte bisogna dire che la cosa è avvenuta, però l'economia da sola, insomma, se non c'è la volontà degli individui, non riesce a mutare il quadro generale, mi sembra. Quindi certo. C'è la necessità di una, che questo poi è il grande problema, di una consapevolezza di quello che sta succedendo, magari agevolato dai processi economici, però pensare che i processi economici portino da soli in quella direzione è un po' troppo funzionalistico. Nella parte del manifesto di Ventotene che abbiamo ascoltato poc'anzi, si dice che il problema in primo luogo va risolto con la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani. Stiamo parlando del 1941, scritto da tre personaggi peraltro che erano al confino, quindi che ci fa pensare anche quale lungimiranza ci fosse in queste affermazioni. Ma ecco, ora a distanza di decenni da questo scritto, si può dire che il problema sia ancora questo, e cioè che l'Europa è ancora divisa in stati nazionali? Beh, purtroppo bisogna riconoscere che l'abbiamo anche un po' aumentati, perché adesso, senza fare polemiche eccetera, però pensate alla frammentazione della Jugoslavia, si sono sempre aumentati di più questi stati e ognuno è entrato nell'Unione, e il problema è appunto che l'abbiamo visto proprio in questi giorni: se ognuno è portatore di un diritto di veto, come si era profilato in tema per esempio di evoluzione dell'euro, è veramente molto difficile andare avanti, e quindi il problema sta ancora lì, anzi per certi aspetti è stato anche moltiplicato. Anche questo va risolto con una consapevolezza politica. Ecco, il padre, abbiamo definito Spinelli il padre del moderno europeismo, ma dal punto di vista del cammino della coscienza federalistica si sono fatti passi avanti in questi decenni oppure siamo ancora fermi? Ma se dovessi fare una premessa, diciamo che ci sono anche delle un po' differenze di status dei paesi europei. Lasciamo stare l'Inghilterra, che si tiene un po' a margine, ma la stessa Francia ha una dignità internazionale un po' superiore a quella degli altri paesi, perché sappiamo che il Consiglio di Sicurezza come membro permanente dell'ONU, potenza nucleare, eccetera. Quindi oggettivamente da parte di qualcuno c'è una certa difficoltà a rinunciare a questa sua posizione un po' superiore a quella degli altri. Lo abbiamo visto in varie circostanze, anche l'atteggiamento avuto sulla Libia, diciamo che voleva mostrare che c'è qualcuno che era un po' più bravo degli altri. Dall'altro punto di vista è che, ripeto questo aspetto, noi abbiamo assolutamente come cultura politica trascurato quello che stava succedendo a livello europeo, che invece era essenziale per il nostro futuro. Questa è una grandissima colpa che noi abbiamo avuto, a parte alcune lodevolissime eccezioni, ma soprattutto negli ultimi anni. Ecco, quando si cita la storia dell'Europa dal secondo dopoguerra in poi e ci si sofferma su personaggi appunto del calibro di Spinelli, Rossi, Colorni, ma anche De Gasperi, e se andiamo fuori dai confini nazionali, abbiamo ricordato Schuman, personaggi di grandissimo rilievo, viene un po' da chiedersi se la crisi dell'Europa oggi non sia anche una crisi di leadership, cioè non abbiamo dei grandi visionari, magari anche all'altezza di un Kohl o di un Mitterrand, che hanno avuto il coraggio di, come dire, di avviare un processo importante di unificazione. Purtroppo sì, però direi che non è solo questione di leader, è proprio un po' di una cultura diffusa che dobbiamo anche riscoprire. Da noi in modo particolare mi sembra che ci sia un po' dimenticati, addirittura è stato un po' curioso entrare nell'euro e disprezzarlo il giorno dopo, pur dopo aver pagato la tassa per l'Europa, capisci? C'è un paese che paga la tassa per l'Europa, entra nell'euro, dopodiché comincia a dire che che però si dissocia un po', insomma un po' di come dire, di avanti e indietro anche culturale l'abbiamo fatto e non credo che ci abbiano aiutati. Seconda cosa, proprio perché eravamo arrivati all'euro, per dire, che è un risultato diciamo federale, perché lì c'è una banca centrale europea, cioè c'è un passaggio sopra la sovranità degli stati, no? C'era bisogno da chi era entrato in difficoltà di raddoppiare la consapevolezza di quello che aveva fatto e di avere una cultura dell'euro ancora più meticolosa di quella che avessero per dire i tedeschi. Invece nel momento in cui siamo entrati poi ci siamo dimenticati di tutto quello che comportava e adesso purtroppo lo stiamo pagando. C'è il presidente emerito della Repubblica Ciampi che quando parla appunto di questi problemi usa spesso il termine zoppia per dire che si è creato con l'euro una forma appunto di separazione tra la moneta unica rappresentata dalla BCE, che è una istituzione federale, e poi una politica economica che non c'è, un coordinamento che non c'è. Allora, è possibile immaginare che dalla crisi che stiamo vivendo in questi giorni si possa uscire con un'Europa più solida dal punto di vista politico, oppure è immaginare come dire, un futuro che ancora è molto lontano? Io in un certo senso in quel cominciare dell'economia per andare alla politica era anche insito il fatto che ci fossero delle crisi che poi devono essere superate con un atto di volontà politica, quindi in un certo senso il percorso passa attraverso delle crisi. Tutto sommato mi pare che adesso fino adesso si siano risolte con dei passetti in avanti e quindi in modo incoraggiante, però ora siamo un po' alle questioni decisive. Ora dire così, adesso si fa l'unione politica, però bisogna, e tutti la invocano e soprattutto noi diciamo sì, però manca l'aspetto politico, però questo vuol dire che tedeschi e francesi si devono sottoporre tutti alla stessa autorità. Ma allora, o è un'autorità superiore, una specie di imperatore che decide per tutti, ma non è il caso, oppure è un fatto politico. Allora bisogna fidarsi gli uni degli altri e noi di questo ci dobbiamo far carico. Noi dovevamo arrivare impeccabili a questo appuntamento, certo. Ma non arriviamo in questo modo, per cui e non è semplicemente il fatto di i tedeschi non si fidano degli italiani, ma se per caso si commettono degli atti di ampia illegalità, facciamo conto grande evasione fiscale eccetera, vedere che all'interno dell'Unione si continua a fare questo può addirittura decostruire la fiducia nella democrazia per un paese come la Germania, per cui dobbiamo capire anche queste resistenze, perché se io mi sottopongo una decisione a maggioranza in cui io sto in minoranza e poi magari nemmeno la rispettano questa decisione, cioè si è rovinata, ripeto, la fiducia stessa nel sistema democratico. Allora per fare questo ci voleva un estremo rigore e noi dobbiamo come Italia europea farci carico totalmente di questo aspetto a mio avviso, altrimenti dobbiamo decidere di andarcene per conto nostro, però voglio vedere dove andiamo a finire. E anche perché, chiudiamo con questo, ricordiamo appunto che noi siamo tra i paesi fondatori e quindi abbiamo anche una responsabilità storica alle nostre spalle. Ma assolutamente, poi oggi si lamenta il direttorio franco-tedesco, è la terza gamba che era l'Italia, si è tirata indietro. Abbiamo poi questa pluralità di soggetti, ripeto, con queste difficoltà sia di creare l'Unione Democratica e sia questi troppi diritti di veto, alla fine è un po' inevitabile che i maggiori responsabili se ne facciano carico. È negativo sicuramente, perché un direttorio non è sicuramente la democrazia europea, però ripeto, noi dobbiamo fare una rivoluzione culturale al nostro interno per capire che dobbiamo recuperare lo spirito dei padri fondatori. Grazie professor Gui e buon lavoro. Grazie a voi.